Gli sbarchi, la Libia, le rotte fantasma. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Refugees, migrant workers, those with poor access to basic healthcare or sanitation are among the worst affected and the most vulnerable. Sappiamo che le persone soccorse vengono da un paese, la Libia, in cui ONG che operano sul territorio riportano il raddoppio del numero di contagi. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Una nuova puntata, la prima della settimana, di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi in assistenza Danilo Di Trani, in console e in regia ritroviamo Roberta Frisani. 349-238-6666 il numero per sms e whatsapp per domande e commenti sul tema che vi propongo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Ed è presto detto, riaccendiamo i riflettori, complice alla situazione di un paio almeno di navi di soccorso di ONG che operano nel tratto di mare di fronte alla Libia, per cercare di capire come sta andando il dossier migrazione, a che livello siamo con gli sbarchi e lo stato dell'arte del dossier migrazione al tempo del Covid-19, che tanti timori sta suscitando. Siamo anche su Facebook, i commenti li leggo anche lì, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Il numero è 349-238-6666. Intanto sfogliamo i nostri dossier. Come sempre accade, il lunedì a inizio settimana si sono accumulati fatti e notizie accadute durante il weekend che stiamo cercando di osservare il più da vicino possibile. La prima che vi sottopongo, lo ricordo, questi dossier sono una raccolta di dati e informazioni che diventeranno ragionevolmente puntate di Nessun Luogo è Lontano. Ebbene, il primo fatto degno di nota arriva dall'India, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 24.000 casi di coronavirus, così che l'India porta il totale di contagi a oltre 697.000 e diventa così il terzo paese al mondo per numero di contagi, superando la Russia. È preceduta l'India solamente da Stati Uniti e Brasile, mentre per i morti per Covid-19 in India sono poco meno di 20.000, e così il paese si posizionerebbe, secondo i dati della Johns Hopkins University, all'ottavo posto. Secondo la BBC, questo aumento molto molto rilevante nei contagi è concentrato in alcuni stati del sud dell'India, tra cui Tamil Nadu e Karnataka, che nella fase iniziale dell'epidemia invece erano riusciti a tenere sotto controllo il numero di contagi. Fonti del governo di Delhi, citati dal quotidiano britannico The Guardian, riferiscono il timore delle autorità che la città di Delhi, appunto, in cui vivono 25 milioni di persone, possa raggiungere i 500.000 casi entro la fine del mese. Per questo motivo le autorità locali hanno convertito sostanzialmente alcuni alberghi a nosocomi per fornire delle cure sanitarie. Torniamo su Hong Kong. Questo è un dossier che campeggia sulla nostra scrivania oramai da mesi e mesi. Perché? Perché non si firma il giro di vite sulle libertà individuali a Hong Kong? Pechino continua a pestare duro sull'ex colonia britannica. Perché? La Commissione per la Sicurezza Nazionale di Hong Kong, che è l'organo istituito dalla controversa legge che è stata promulgata la settimana scorsa, si è riunito oggi per la prima volta e fresco fresco ha approvato un regolamento che amplia i poteri delle forze della polizia di Hong Kong, che potrà perquisire domicili privati, esercizi e veicoli, quindi automezzi e non solo, senza un mandato dell'autorità giudiziaria. Potrà chiedere editori e piattaforme online di cancellare contenuti che mettono a repentaglio la sicurezza nazionale. La pena per chi si rifiuta è una multa da $100.000 di Hong Kong e 6 mesi di prigione. Stesse pene applicabili anche alle organizzazioni straniere che si rifiutano di fornire informazioni. Infine, la polizia potrà eseguire intercettazioni senza l'approvazione del governo. E intanto librerie, biblioteche e scuole della città stanno rimuovendo tutti i libri che potrebbero violare questa nuova legge sulla sicurezza nazionale. C'è di che preoccuparsi, se non fosse che in qualche modo un rigurgito antisistemico arriva proprio dai social network. Facebook, che controlla WhatsApp, ma anche Telegram, hanno infatti appena annunciato che sospenderanno le richieste di accesso alla messaggistica di privati cittadini rivolte dalla polizia di Hong Kong. Il portavoce di Facebook ha annunciato che l'azienda sta effettuando consultazioni con esperti di diritti umani per capire come gestire la situazione e poi eventualmente dare una risposta. Come si vede, stiamo assistendo a una vera e propria stretta sui diritti civili, individuali e sulle libertà. Ve l'abbiamo raccontata molto spesso in queste settimane. A questo punto resterà da capire come reagirà il fronte democratico o quel che resta, perché vi davamo conto nelle scorse puntate in Nessun Luogo Lontano come molti cittadini di Hong Kong avessero già iniziato a esplorare alcune possibilità di vita all'estero, da Taiwan fino al Regno Unito e infine in Australia. E ancora, proseguendo a sfogliare i nostri dossier internazionali, la polizia austriaca sta indagando sull'omicidio di un cittadino ceceno. È avvenuto sabato a Vienna e due uomini di origine russa sono stati arrestati dalla polizia. La vittima è un uomo di 43 anni, di origine cecena, ve lo dicevo, che aveva fatto richiesta d'asilo politico in Austria, ucciso a colpi d'arma da fuoco sabato davanti a un centro commerciale di Gerasdorf, che è un piccolo comune alle porte di Vienna. Secondo la Reuters, l'uomo è stato identificato con uno pseudonimo, Martin B., era molto critico non soltanto nei confronti del governo di Vladimir Putin, ma aveva anche pubblicato accuse online nei confronti del leader ceceno Kadyrov. Inoltre, secondo quanto ha riferito il Ministero degli Interni ucraino alla AFP, la vittima aveva testimoniato in un caso di omicidio avvenuto in Ucraina appunto nel 2017. Il processo riguardava l'uccisione della moglie di un uomo che aveva complottato per uccidere il presidente russo Putin. Secondo quanto riferisce la Reuters, la polizia austriaca avrebbe offerto protezione individuale all'uomo, il quale si sarebbe rifiutato, e forse questo rifiuto appunto gli è costato la vita. Il tutto si inserisce in un quadro che vi raccontiamo da parecchio tempo di una vera e propria caccia al dissidente ceceno in giro per l'Europa da parte probabilmente di forze russe. Infine, velocemente in Iran, perché il 2 luglio un incendio ha danneggiato il sito nucleare iraniano di Natanz. La notizia è stata confermata dal portavoce dell'agenzia atomica iraniana. Un grave incendio, secondo fonti giornalistiche. All'inizio, come spesso ci ha consegnato la recente contemporanea storia iraniana, le autorità avevano cercato di minimizzare l'episodio. Le autorità stesse hanno poi restituito la verità nella loro reale dimensione, dicendo che questo grave incidente potrebbe rallentare il processo di sviluppo delle centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. Hanno anche detto: sappiamo qual è la causa, ma per il momento non verrà svelata. Tutti i funzionari iraniani che hanno parlato sotto anonimato all'agenzia Reuters. Non è la prima volta che arrivano attacchi nel cuore nucleare, per così dire, di Teheran. Naturalmente aleggia sempre il sospetto che dietro vi sia la mano americana o israeliana. Infine, in Croazia, e torneremo a parlare di Croazia durante questa puntata in Nessun Luogo Lontano, perché ieri si è votato il Partito Conservatore dell'Unione Democratica Croata, la sigla è HDZ, guidato dal premier Plenković. Ha vinto 37,3% dei voti, vittoria storica, il miglior risultato dal 1995, disattesi completamente tutti i pronostici e i sondaggi che davano un testa a testa invece con il centro-sinistra, con la sinistra croata. Però, grande novità, come ci stanno abituando molte tornate elettorali europee degli ultimi mesi, il successo dei Verdi, 7%, quinta forza politica del paese, e quindi entreranno per la prima volta nel Parlamento di Zagabria. Il tutto comunque va a consolidare il potere di Plenković, che non ha, ragionevolmente, non avrà problemi a formare una nuova maggioranza. 349-238-6666, qualcuno ha già scritto il suo commento, la sua opinione su Hong Kong. Hong Kong è cinese, la Cina è una dittatura e come tale si comporta, altrimenti, scrive l'ascoltatore, farà la fine dell'Unione Sovietica, andrebbe facilmente in guerra civile. Ve l'immaginate, 1,5 miliardi di persone che si scontrano, equivarrebbe a un conflitto mondiale pericolosissimo, così Saverio, che fa riferimento al regime cinese che riesce a tenere insieme una quantità di popolazione, una vastità di confini davvero incredibile. 349-238-6666, intanto Roberta Frisani apre la nostra lunga pagina dedicata al dossier immigrazione. Cambiamo il tema immigrazione, ma vi preannuncio anche che avremo una pillola, per così dire, dedicata al weekend appena trascorso. Vi ho detto che questo è stato un weekend particolarmente ricco per noi. E durante il weekend cadeva anche il 4 luglio, che è l'Independence Day, la giornata in cui gli Stati Uniti celebrano la loro indipendenza. Il presidente statunitense Donald Trump ha pronunciato forse uno dei discorsi più attesi e anche più divisivi. Ve lo preannuncio, avremo anche un commento di una giornalista, una collega molto esperta che segue da vicino le vicende americane. Dicevo però, apriamo il dossier immigrazione dando un po' di numeri che sono la base per qualsiasi discussione, analisi e anche commento. Quindi partiamo dai dati che sono forniti dal Ministero degli Interni, li sentiamo insieme. Secondo i dati forniti dal Ministero degli Interni, aggiornati al 3 luglio, i migranti sbarcati sulle coste italiane dall'inizio dell'anno sono 7.314. Durante lo stesso periodo del 2019 erano stati 2.790, 16.689 invece nel 2018. Tra le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco dominano i tunisini, seguono poi bengalesi, ivoriani e algerini. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, nei primi sei mesi del 2019 sono stati invece 5.475 i migranti bloccati in mare dalla Guardia Costiera di Tripoli e riportati in Libia, mentre nello stesso periodo gli annegamenti accertati avvenuti sulla rotta mediterranea centrale sono stati 98 e 149 le persone disperse. Nel frattempo, diverse navi devono vedersela sia con le normative vigenti che con le nuove procedure anti-Covid. La nave Ocean Viking, che ha attualmente a bordo 180 migranti recuperati in tre diverse operazioni, è ormeggiata nella rada di Porto Empedocle, dato che non è stato concesso nessun porto sicuro. Anche la Sea-Watch 3 è ormeggiata nella rada di Porto Empedocle, pur avendo già trasbordato 211 naufraghi sulla nave quarantena Moby Zaza, ancorata in porto. L'obbligo di quarantena da espletare all'interno di navi private messe a disposizione dal governo è una conseguenza del decreto legge dello scorso 7 aprile, con il quale l'Italia ha dichiarato non sicuri i suoi porti a causa dell'emergenza Covid-19. Questi sono i numeri degli ultimi sbarchi e, come dicevo, è una premessa necessaria e fondamentale per poter articolare un ragionamento e poter argomentare. 349-238-6666, sbarchi, immigrazione al tempo del Covid-19, ma anche la situazione sul terreno in Libia. Ve la riassumo molto molto brevemente. Nonostante un bombardamento che sarebbe stato compiuto nelle ultime ore da aerei non meglio identificati ma provenienti da Bengasi, quindi generale dissidente Haftar, hanno colpito l'aeroporto di Tripoli, non vi sono stati morti ma vi sono stati danni. Secondo il GNA, il governo di accordo nazionale di Tripoli, di Fayez al-Sarraj, si tratta di un modo per sviare in qualche modo, lenire la cocente sconfitta del generale Haftar. Adesso tutto si gioca, lo diciamo da giorni e giorni, su una linea del fronte che si colloca sostanzialmente nella città di Sirte. Da lì c'è l'imbocco, la grande porta che apre a tutte le postazioni petrolifere che sono ancora in lockdown dopo che il generale Haftar sostanzialmente ha chiuso tutti i rubinetti del petrolio. Quindi stallo per il momento sul terreno, dovuto a cosa? Beh, tra le varie ragioni c'è un Fatah al-Sisi, il generale reggente il regime egiziano, che ha detto: attenzione che se Sarraj supera la linea rossa di Sirte noi saremo costretti a intervenire perché è una minaccia alla sicurezza nazionale. Arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666 che hanno anche a che fare col lunghissimo viaggio che alcuni migranti devono fare. Curioso, ma in Libia dal Bangladesh come ci sono arrivati? Gentile ascoltatore, a volte le odissee dei migranti compiono dei peripli dei continenti. Io per esperienza ho trovato indiani del Punjab, addirittura nell'enclave spagnole di Ceuta e Melilla. C'è stato un momento in cui i siriani partivano dalla Libia a seconda delle politiche europee, a seconda dei maggiori o minori pattugliamenti del guardacoste, a seconda delle tariffe che i trafficanti applicano. Ebbene, anche le rotte sono assolutamente flessibili, dinamiche, cambiano ulteriormente. In questo momento sui riflettori, sotto i riflettori, c'è ancora quella centrale del Mediterraneo, che è lì dove opera fra gli altri anche Sea-Watch. Giorgia Linardi, portavoce proprio di Sea-Watch, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Linardi, ci può dare una mano a capire meglio, dietro i numeri e le nazionalità di provenienza che abbiamo appena enumerato, chi sono i migranti che avete recuperato, dove avete effettuato gli ultimi salvataggi e che tipo di imbarcazioni avevano, in modo da capire meglio quell'ultimo tratto di mare che hanno compiuto, in che condizioni erano? Sì, rispetto ai soccorsi effettuati da Sea Watch, si è trattato di due imbarcazioni in legno, vetro, resina e un gommone. Il primo soccorso in particolare si è trattato di un gommone e i successivi due soccorsi sono appunto due imbarcazioni in legno. Abbiamo soccorso 211 persone in totale. La nazionalità prevalente, per quello che ha riguardato il nostro caso, è stata quella eritrea, sì, seguita da quella bengalese a seguire persone di nazionalità di paesi dell'Africa subsahariana, sia occidentale che orientale. Le città, le località, diciamo, di partenza di queste imbarcazioni, sì, restano quelle ormai note. Nel caso specifico, queste imbarcazioni sono partite da Zawiya, Zuara e Sabrata, quindi sì, tre località diverse. Le abbiamo soccorsi appunto in tre diverse operazioni tra il 17 e il 19 e il 19 giugno in acque internazionali, sì, nella zona SAR libica e l'ultimo caso nella zona SAR maltese. SAR si intende di search and rescue, ricerca e soccorso. Sì. La voce che state sì, prego, sì. Linardi, prosegua pure se deve finire. Sì, volevo, sì, semplicemente aggiungere un dato. Quando si parla appunto di zona SAR, di ricerca, sì, e soccorso, si parla di un'area di responsabilità dello Stato costiero e non di giurisdizione. Nel momento in cui le autorità costiere non si assumono il coordinamento del caso, resta, insomma, si creano quelle situazioni che spesso vediamo, un po' di impasse, in cui si attende per giorni l'assegnazione di un porto sicuro. Stando alla Convenzione di Amburgo, gli stati costieri dovrebbero cooperare tra di loro perché venga assegnato un porto alla nave. Geograficamente il porto sicuro più vicino a tutte e tre le posizioni dei soccorsi resta comunque l'Italia, in particolare, sì, con riferimento all'isola di Lampedusa, che però si cerca di evitare come meta di sbarco per ovvi motivi, insomma, di capacità di ricezione dell'isola, salvo in situazioni in cui non si possa fare altrimenti. La voce che state ascoltando, diceva, quella di Giorgia Linardi, che è portavoce di Sea-Watch. Tra le tante informazioni, una, Linardi, mi sembra molto molto interessante: non soltanto gommoni, quei gommoni che ricordo bene molto spesso, che galleggiano a fatica con motori fuori bordo sputacchianti, perdonatemi il termine, una miscela di benzina altamente urticante per la pelle, gommoni che non sono assolutamente in grado di fare quel lungo braccio di mare che dovrebbero invece percorrere. Invece, attenzione, imbarcazioni in legno e vetro resina sembra un po' un passo indietro, una tecnica che gli scafisti e i trafficanti di uomini libici utilizzavano alcuni anni fa. State notando un cambiamento anche nell'atteggiamento dei trafficanti, dalle poche informazioni che poi riuscite a carpire, insomma, dai migranti che salvate? Sì, noi diciamo che è stata effettuata una scelta a bordo di non effettuare più la raccolta sistematica di testimonianze, sì, perché se un tempo le persone dopo il soccorso venivano sbarcate nell'arco delle successive 24-36 ore, purtroppo a seguito delle recenti scelte politiche si è successo di avere le persone a bordo fino a 20 giorni. In questo tipo di situazione diventa fondamentale puntare sulla tenere le persone il più salde possibili, e abbiamo riscontrato come portare le persone alla condivisione delle proprie esperienze, delle esperienze traumatiche vissute durante il viaggio, in particolare in quelle che sono le principali località di passaggio, di detenzione in Libia, fosse diciamo in qualche modo destabilizzante. Quindi dall'estate scorsa, sì, non effettuiamo più la raccolta sistematica di informazioni. Ovviamente chiediamo quelle che sono le informazioni di base, quindi da dove sono partiti. Raccogliamo ovviamente tutto quello che riguarda nazionalità, informazioni che poi servono per essere trasmesse alle autorità. E quello che però in effetti sì abbiamo notato è che si è ritornati all'utilizzo di anche appunto dei cosiddetti barchini, sì. Non necessariamente come avveniva qualche anno fa, pescherecci piuttosto grandi con moltissime persone a bordo, sì. Vi ricorderete insomma questi barconi appunto cosiddetti con anche 400 persone a bordo, si tratta di tendenzialmente di un numero comunque di partenze decisamente minore rispetto a qualche anno fa e distribuito su natanti tendenzialmente più piccoli. Quello che però notiamo rispetto per esempio all'operatività del 2015-16 è come ci sia meno attenzione rispetto alle condi meteo, quindi ci è capitato per esempio di avere notizia di persone in mare anche in giornate in cui le condizioni meteomarine in altri tempi non avrebbero visto la presenza di persone in mare. Questo perché non c'è nessun interesse rispetto a quella che sarà la forza di queste persone e su questo è evidente, è sempre stato il modus operandi dei trafficanti libici, il viaggio si paga prima di partire dalle coste libiche, per cui come dire l'affare è chiuso, è concluso, poi molto spesso c'è una scarsa conoscenza anche geografica, perdonerete l'autoreferenzialità, ma ricordo di cittadini del Gambia che erano convinti che il Mar Mediterraneo era esattamente come lo stesso fiume che loro erano abituati a osservare dal loro paese, quindi magari 2, 3, 4, 5 chilometri da attraversare, non di più, sarebbero arrivati. E quindi c'è anche un approfittarsi da parte delle organizzazioni criminali di una scarsa conoscenza di quello che avverrà. Questo non vale per tutti, assolutamente. Tanti messaggi al 349-238-6666. Giorgia Linardi, le propongo di stare ancora con me qualche minuto, tra poco sentiremo l'informazione finanziaria. Provo a riassumere il tenore. Molti messaggi dicono: non vogliamo assolutamente clandestini, dovete capirlo, l'Italia deve chiudere. Sentite quanto è in crisi il sindaco di Porto Empedocle, qualcun altro come Francesco, chiamiamo le cose con il loro nome, migranti economici sfruttati da mafiosi anche nostrani che organizzano i viaggi, le ONG che altrimenti non avrebbero lavorato e finanziamenti, la politica che cerca visibilità e voti tra le organizzazioni che organizzano l'assistenza, molte altre strumentalizzazioni. Ci vorrebbe un libro così, Francesco, che da un lato mi sembra sottolinei una cosa, che il dossier immigrazione fa guadagnare chiunque. Il guadagno può essere anche politico, può essere di visibilità, ideologico, quello che volete. Da una parte esiste anche un guadagno vero e proprio, io quello lo attribuirei fondamentalmente all'inquinamento delle tante cooperative e fondamentalmente alle tasche dei trafficanti in Libia, e su quello ci sono tante tante inchieste che corroborano anche come molto spesso quei guadagni, che sono tutti cash, tutti in nero, vanno a finanziare anche il traffico di armi, se non peggio. 349-238-6666. Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, un attimo di pazienza, sentiamo come va la borsa e poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano proviamo a fare il punto sul dossier immigrazione ai tempi del Covid-19. Tanti messaggi al 349-238-6666. Alcuni stigmatizzano in toto il lavoro di Sea-Watch e di tutte le altre ONG. Con noi la portavoce Giorgia Linardi. Qualcun altro si chiede: ma perché non intervenire molto prima del loro viaggio? Il famoso, famigerato a seconda dei punti di vista, aiutiamoli a casa loro. Vi sono stati alcuni esempi, alcuni tentativi, ma ricordiamo che rendere meno conveniente, meno opportuno dal punto di vista anche strettamente economico il viaggio significa fare investimenti nei paesi di partenza che vedranno i loro frutti tra molti e molti anni. È un lavoro sul lungo termine e naturalmente richiede alla politica, ma questo non devo dirlo io evidentemente, di immaginare che tipo d'Italia, che tipo di Europa si vuole. Poi rigetto al mittente alcuni ascoltatori, pochi in verità, che dicono che questo programma è uno spot a favore dell'immigrazione. Stiamo raccontando, dando i dati, quello che sta accadendo. Lo spot è un'altra cosa. Giorgia Linardi, l'ultima domanda, prima di fargliela però le faccio sentire quello che è il ruolo della nave quarantena, perché siete costretti a operare, e dovete farlo evidentemente, in condizioni di tutela sanitaria per voi ma anche per i migranti che soccorrete. Ascoltiamo. Il 15 maggio il primo gruppo, composto da 53 migranti sbarcati a Lampedusa qualche giorno prima, è salito a bordo della Moby Zaza, la nave da crociera affittata dal governo per mettere in quarantena i migranti sbarcati a Lampedusa o sulle coste dell'Agrigentino. La nave, ormeggiata in rada davanti alla città siciliana di Porto Empedocle, può ospitare complessivamente 250 migranti, che trascorrono a bordo i 14 giorni di quarantena previsti dal Ministero della Salute per evitare la diffusione del contagio da coronavirus, prima di essere trasferiti nei centri di accoglienza sulla terraferma. La gestione sanitaria è affidata a team di operatori di Croce Rossa Italiana, composti da 25-30 persone, tra medici, infermieri, ostetriche, psicologi, mediatori culturali e interpreti. Attualmente le persone a bordo sono 210, di cui 14 ancora positivi al tampone. Complessivamente dal 15 maggio a oggi la Moby Zaza ha accolto 682 migranti. Oltre ai tamponi, i protocolli sanitari adottati a bordo dell'imbarcazione prevedono l'isolamento dei casi positivi e l'applicazione per tutte le persone assistite di misure di sorveglianza attiva al fine di monitorare le condizioni dei singoli anche durante i periodi finestra di incubazione del virus. Al termine dei 14 giorni di quarantena, chi è risultato negativo al tampone ha potuto scendere dall'imbarcazione, previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente. Giorgia Linardi, che cosa vuol dire per voi lavorare ai tempi del Covid-19? Ovviamente si tratta di applicare una serie di misure per la prevenzione dell'eventuale diffusione del contagio che non erano attuate in precedenza. Quello che si è fatto durante i 3 mesi del lockdown è stato lavorare intensamente, questo c'è stato un grande lavoro fatto dal nostro team medico per studiare tutte quelle che sono le linee guida a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello di Ministero della Salute italiano e dello stato di bandiera della nave che è la Germania, per assicurare il livello di sicurezza più alto possibile. È evidente che si tratta di misure comunque sperimentali. Questa pandemia riguarda per la prima volta tutti quanti noi e quindi per la prima volta queste misure vengono applicate su navi che si trovano a svolgere questo tipo di attività soccorso. Alcune delle misure, innanzitutto ci sono delle misure preventive attuate sulla nave e sull'equipaggio per ridurre al minimo possibile la possibilità che siano che sia proprio l'equipaggio il vettore del contagio, quindi tutto l'equipaggio ha osservato il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni prima di imbarcarsi, ha effettuato il tampone e ovviamente si sono poi imbarcati e sono partiti per la missione dopo aver ricevuto l'esito negativo di tutti i tamponi. La nave è stata sanificata e ha ricevuto la relativa certificazione da parte delle autorità sanitarie italiane. Nel momento in cui si sono effettuati i soccorsi, alle persone è stata misurata la temperatura al momento dell'imbarco. Sì. I casi sintomatici sono stati posti in isolamento e ovviamente per tutti è valso l'obbligo di indossare la mascherina, disinfezione continua delle mani, distanziamento per quello che è possibile, perché c'è un discorso molto, molto semplice, e cioè che il distanziamento di 1 metro si può garantire fino a un certo numero di persone a bordo, dopo il quale non è più possibile. Detto questo, ahimè, non siamo nella condizione però di non soccorrere delle persone, perché non c'è più la possibilità di osservare il distanziamento di 1 metro, perché evidentemente l'obbligo di soccorso va oltre. È uno dei nodi nevralgici, mi permetto di interrompere a Giorgia Linardi, cioè diciamo, l'equipaggio di Sea-Watch può garantirsi e garantire agli altri tutte le norme igienico-sanitarie, mentre una serie di salvataggi invece impongono gioco forza il non rispetto del distanziamento sociale, forse uno dei punti nevralgici sui quali riflettere e lavorare. Adesso ringrazio tantissimo Giorgia Linardi, vorrei voltare pagina, vorrei mettere il grandangolo. Intanto grazie mille per essere stata con noi, Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Allora, 349-238-6666, c'è molto molto scoramento, c'è chi mi accusa di fare uno spot e un'intervista in ginocchio con Giorgia Linardi, c'è qualcuno che recrimina, non riusciamo a far ripartire la scuola ma siamo in grado di applicare protocolli sanitari su una nave di un ONG, da chi è pagata la Linardi, da Soros e Company, non ho nessun obbligo né giuridico né morale di mantenere chi che sia in nessun luogo, tuona un altro ascoltatore senza firmarsi e diciamo mettendo un grandangolo serio. Nessun obbligo né giuridico né morale di mantenere chi che sia in nessun luogo, mentre mantenere no sicuramente, mentre sul salvataggio potremmo disquisire a lungo, perché esistono norme del diritto del mare e del diritto internazionale. Mettere il grandangolo quando si parla di immigrazione significa coinvolgere Matteo Villa, analista di ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperto ai lui. Matteo, buongiorno, ben ritrovato, di immigrazione c'è? Forse Matteo Villa, riproviamo. Eccomi, no, grazie, buongiorno a voi. Io ho fatto una presentazione come si deve, tu sei sparito, sei evaporato. Come... Ho sentito. Sono evaporato come un migrante, scusate. Come un migrante. Se non fosse Matteo Villa, che nel frattempo i dati sono cresciuti tantissimo, quanto in percentuale rispetto all'anno scorso sono aumentati gli sbarchi? Sono più 150%, ma appunto come dicevi bisogna mettere il grandangolo per capirci qualcosa, perché è vero che rispetto all'anno scorso, se noi prendiamo i primi 6 mesi dell'anno, arriviamo fino al 6 luglio, cioè oggi, siamo passati dai 2.985 dell'anno scorso a 7.368, quindi un più 150%, avrete sentito anche inizio anno, più 700, sì. Più 300% a volte si diceva. Ecco, c'è bisogno di mettere il grandangolo per capire che cosa sta succedendo nel mare, perché chi pensa che un raddoppio significhi sempre grandi numeri ovviamente sbaglia. Se passassimo da un migrante un giorno, un anno, a due l'anno successivo sarebbe sempre un 100%, ma due persone non sarebbero nulla. Ecco, ricordatevi cosa è successo nel periodo dei veri alti sbarchi, quelli effettivamente hanno messo sotto pressione l'Italia per ben 3 anni, dal 2014 al 2016. In quei 3 anni, in un anno, ogni anno sbarcavano tra i 150.000 e i 180.000 persone, e in questo momento dell'anno saremmo stati attorno alle 70.000 persone sbarcate. Quest'anno, ripeto, sono sbarcate 7.000 persone, cioè siamo al meno 90% rispetto al periodo di crisi. Questo è quello che dobbiamo ricordarci sempre. E l'ultima cosa, l'ultimo dato, non vorrei imbottirvi di dati, ma ve lo voglio ricordare. Alla fine dell'anno, se continuiamo così, arriveremo a circa 15.000 sbarchi, che sono esattamente nella media del decennio precedente la crisi. Cioè tra il 2000 e il 2010 sbarcavano più o meno 15.000 persone in Italia e tranne pochissimi casi nessuno si lamentava del fatto che per un paese, diciamo, che si sporge sul Mediterraneo e che può essere approdo di tantissime persone, 15.000 fosse un problema enorme, noi siamo 60 milioni. Quindi chiarissimo. Tra 15.000 e 150.000 c'è una differenza. C'è una bella differenza, a volte aggiungere uno zero, come dire, cambia parecchio la percezione. Matteo Villa, stai con noi, andiamo a sentire come vanno le strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Susa! Brata! Rata, Vila, Sama, Yuba, Zala. E Roberta Fisani ci sta ricordando che tra pochissimo ci muoveremo lungo la rotta balcanica, non prima di aver fatto un'altra domanda a Matteo Villa, analista di ISPI, esperto di immigrazioni, perché molti ascoltatori continuano a scrivere quella che è un'equivalenza, a loro dire ormai assodata, ONG uguale tassisti del mare, trafficanti uguale scafisti. Torniamo a questo famoso, famigerato pull factor. Esiste una dai dati che studi da anni, esiste una qualche forza di attrazione, cioè la presenza di ONG davanti alla Libia fanno sbarcare più migranti, sì o no? È logico supporlo, ma i dati dicono di no. Cioè sono 3 anni che io raccolgo dati ogni giorno, adesso negli ultimi 2 anni li raccolgo proprio giornalmente, su quante persone sembra che partano dalla Libia rispetto alla presenza in mare delle ONG. E quello che vi posso dire è che negli ultimi 2 anni sono partite 52 persone ogni giorno con le ONG presenti davanti alle coste e 52 persone ogni giorno senza nessuno presente davanti alle coste. Quindi che ci sia qualcuno o non ci sia, sembra che non cambi nulla. E come si spiega questo? Si spiega, come dicevi tu, non è una questione di pull factor, cioè attrazione, noi li facciamo partire, ma dalla Libia, primo, non è bellissimo, le condizioni non sono bellissime, si vuole partire lo stesso, ma soprattutto ricordiamoci l'ultimissimo dato di cui voglio parlare oggi, cioè noi in Europa abbiamo un reddito medio di circa $30,000 l'anno, in media in Africa subsahariana il reddito medio è di circa $1,500 l'anno, la differenza è 15, quindi non è 2, 3, 5, ma 15 volte tanto. Chi prova a viaggiare cerca di arrivare in Europa con ogni mezzo, e che ci siano o non ci siano ONG, anche se ci sembra logico che le ONG debbano fare una sorta di fattore di attrazione perché è più facile il viaggio, no, non è così, che ci siano o non ci siano le ONG, le persone si mettono in viaggio lo stesso. Grazie mille Matteo Villa, ancora una volta la cruda verità dei numeri che al dispetto della realtà percepita invece ci costringono a un lavoro, e oserei dire un lavorio intellettuale. Matteo Villa, analista esperto di ISPI, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Intanto 349-238-6666, ma c'è pure il confine orientale, da dove ogni giorno molte persone entrano in Italia. Proprio di questo vi voglio parlare, sentite. La rotta balcanica si apre, diciamo, nel 2014. La rotta balcanica significa entrare via terra verso l'Europa, con delle traiettorie che cambiano costantemente. La rotta balcanica si intende l'intero percorso che i migranti fanno sostanzialmente in partenza dalla Turchia e dalla Grecia, insomma sostanzialmente tutte le possibili direttrici che risalgono, no? Appunto la penisola balcanica, e vanno verso l'Unione Europea. La rotta balcanica, che è una delle principali porte d'ingresso, nel 2016 ha visto transitare a piedi quasi 1 milione di siriani, poi finite la maggior parte in Siria. Buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano anche a Davide Ludovisi, giornalista, autore di un documentario, Rotta Balcanica, Ultima Fermata. Davide, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Allora, che senso ha tornare ad accendere i riflettori sulla rotta balcanica quando tutti noi giornalisti siamo concentrati sulla rotta centrale del Mediterraneo? Beh, proprio perché è meno visibile per certi versi la rotta balcanica, ma non per questo meno importante, nel senso che vedere appunto le immagini dei barconi, della gente ammassata sulle barche, ovviamente ci dà un colpo al cuore, nel bene e nel male, però appunto la rotta balcanica, cioè quella, la strada via terra, insomma, che i migranti compiono per arrivare in Europa, è altrettanto importante, sia numericamente sia appunto per quanto riguarda il diritto umano, i diritti umani. Però appunto se ne parla poco perché è di per sé stessa invisibile, cioè le persone che cercano di attraversare quei confini cercano di farsi vedere il meno possibile. Sì. Davide Ludovisi, hai realizzato questo documentario che sostanzialmente si concentra sull'ultima anello di questo gigantesco imbuto, perché abbiamo avuto notizie negli ultimi anni di persone che sono rimaste bloccate per mesi e mesi, soprattutto l'inverno, tra Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, eccetera. Si riesce a quantificare il numero di passaggi? So che parlando di rotta fantasma, chiederti di quantificare il numero di migranti è un paradosso, suona come un grande ossimoro, ma che idea ti sei fatto? Ma la risposta breve è no, è molto difficile, sarà impossibile quantificare. Diciamo i dati più tangibili che abbiamo sono quelli riferiti ovviamente all'anno precedente, 2019. I dati ufficiali Eurostat parlano di, in Italia, in totale di circa 8.320 richieste di asilo. A Trieste, che diciamo, è uno snodo fondamentale in Italia per l'ingresso in Europa, il sistema di accoglienza diffuso ha registrato più o meno 3.000 persone, circa, insomma. Sì. Questo è il dato che si può più o meno quantificare, poi è molto difficile perché una persona magari arriva a Trieste ma semplicemente ci transita, poi magari ritorna perché poi per esempio in altri paesi è più difficile ottenere il riconoscimento dello status giuridico di rifugiato per cui ritorno in Italia. Insomma, è molto molto difficile avere dei dati veri e propri, insomma. Però insomma quello che si sa è invece le violenze che queste persone subiscono all'interno dell'Europa, che questo è abbastanza sconvolgente. Sì, e in particolare insomma so che ti sei occupato anche di quelle che sono state le violazioni da parte della polizia croata che ha utilizzato metodi francamente discutibili. Ne ho avuto prova diretta anche durante i miei viaggi in Serbia, proprio sulla rotta balcanica. Torneremo a parlare con Davide Ludovisi, perché si è occupato, lo ricordo, rotta balcanica, ultima fermata, con questo suo documentario, di un pezzo importante, perché mentre tutti raccontiamo il sud del Mediterraneo, anche a nord-est si muove qualcosa. Grazie mille Davide, buona giornata, buon lavoro, a presto. Adesso, come preannunciato, vi faccio sentire il sunto, un po' i contenuti e un po' il mood, visto che dobbiamo andare negli Stati Uniti, del strano, divisivo, discutibile discorso di Donald Trump. Ce lo racconta Gaia Pellegrini Bettoli, giornalista freelance italo americana, che ha appena scritto un libro che si intitola Shake Up America, e il sottotitolo è interessante: capire le elezioni 2020 come un americano. Editore Castelvecchi, sentite. Il 4 luglio, Independence Day, è una data molto importante, molto sentita negli Stati Uniti, e generalmente i discorsi che vengono tenuti dai presidenti sono discorsi che cercano di unire il paese, particolarmente in momenti di crisi come quello che viviamo adesso. Vediamo che ci sono stati 130.000 morti per Covid, il tasso di disoccupazione è arrivato addirittura al 14% ad aprile, per un paese che normalmente ha un 5,5%. Invece Trump si è soffermato sotto il Mount Rushmore a sottolineare aspetti come la necessità di sconfiggere la sinistra radicale, secondo lui responsabile di tutti i problemi negli Stati Uniti al momento. Si è riferito a the mobs, le folle che però hanno un'accezione negativa in inglese, folle impazzita in pratica. E quindi possiamo dire che questi sono stati gli aspetti principali del suo discorso, che però sono forse anche prevedibili. Quello che invece non è stato per niente prevedibile e che ha scosso anche il partito repubblicano e la stessa base di Donald Trump è il fatto che ci sia stata una defezione molto importante questa settimana. Su Fox News il presentatore Tucker Carlson ha detto pubblicamente di non supportare più Trump, e facendo 6 milioni di ascolti e di share e parlando alla stessa base di Trump, questo ha attirato l'attenzione di tutti nel paese, soprattutto all'interno del partito repubblicano. Quindi vi invito a tenere d'occhio questo aspetto degli Stati Uniti, che è passato sotto traccia forse nel nostro paese. Ubbidiamo all'invito di Gaia Pellegrini Bettoli, ma anche a quello di Roberta Frisani. Un saluto, ci sentiamo domani alle 16:00.